alzati alla finestra, amore mio. Yeah. Grazie! Grazie! Oh, adesso vabbè, visto che tanto che ci siamo, andiamo avanti con un'altra canzone d'amore, una piccola canzone, però naturalmente la canzone è piccola, ma l'amore è infinitamente grande. Yes! Amor che muove il sole e le altre stelle, diceva uno.